quindi volevamo che la musica fosse protagonista. In passato con Giocoli io e Mirko Rizzotto abbiamo già collaborato, abbiamo fatto diversi spettacoli e ci è sempre piaciuto molto costruire lo spettacolo partendo dalla musica che ci sembra abbia un'immediatezza maggiore e che possa arrivare a tutti indipendentemente dall'età o dalla cultura. E abbiamo lavorato sia su degli spettacoli drammatici in passato, sia sull'Olocausto ad esempio, sia su degli spettacoli per bambini, e avevamo molta voglia di ripetere questa esperienza, quindi siamo partiti dal corpo musicale, dall'orchestra, quindi tutto ruota intorno all'aspetto musicale che ci sembra possa interessare tutti e coinvolgere tutti, spesso più delle parole. Let's pack up what we need. It's time for us to go. She's nearer every day. Oh, better out of time. Oh, better all the time. Ooh, better all the time. Much better out of time. Oh, better all the time. Better out of time. We'll see a dory from the circle round there. Well, the world might shy away for new beginnings in our ground. Oh, tick, tick, tacking away. Now we're at our run, run, running away. Oh, what a dirty way to go. Oh, è meglio ogni volta, it's better all the time. Loro sono i Galliano, terzo disco, The Plot Thickens. Quindi questa sera per la rassegna San Francesco Estate, musica e teatro in piazza. Per quanto riguarda il weekend, abbiamo avuto il last minute per questa sera con la voce del regista Massimo Scheuza. Dalle ore 21 l'ingresso è libero, l'orchestra del Baraccano con Radio Ritmi, voci e suono dall'etere. Però riporto i contenuti anche del weekend. Per domani, sabato 29 giugno, lo scrittore Paolo Nori, abbiamo anche riportato in frequenza il contenuto delle sue idee condivisibili per quanto riguarda determinati aspetti, o almeno che portano a una riflessione. Insieme al violoncellista Enrico Bronzi presenta In piena facoltà e In pieno ferragosto. È un reading con musica di una selezione dallo splendido repertorio di Salvatore De Matteis. Insomma, domani, per quanto riguarda San Francesco Estate, lo scrittore Paolo Nori sul palcoscenico per un'estate nel cuore, a proposito di cuore, nel centro della nostra città. Chi scrive il testamento di nascosto dalla moglie così: quando sarò morto dovete cercare il mio testamento qui presente dietro all'armadio. Se non lo cercate dietro all'armadio, non lo trovate, allora è inutile che lo cercate. E chi in fundus, mi raccomando, le esequie. Non facciamo le solite figure da pezzente, dice. È un testamento un po' particolare. Ci tiene anche a quest'ultimo viaggio. Domenica 30 giugno We're Reading presenta Terra, Pietre e Ulivi, una serata dedicata alla Palestina in un momento drammatico di uno dei conflitti più lunghi della storia contemporanea. Il giornalista, fotografo e podcaster Valerio Nicolosi, che negli ultimi 10 anni ha viaggiato tra Israele, Striscia di Gaza e Cisgiordania, prova a ricostruire la storia recente di quella terra attraverso le parole di scrittori, scrittrici che l'hanno amata, vissuta, sognata, odiata. Una terra contesa, due popoli che la reclamano e tanti anni di guerra che ha vissuto varie fasi. Direi proprio che il Reading, We Reading, con la presentazione di Terra, Pietre e Ulivi, chiude il weekend con grande attualità e attenzione. E noi abbiamo concluso invece la settimana con la prima colazione in diretta e con il Breakfast Club, e io propongo per i nostri saluti questo brano bellissimo di United Future Organization. Inizia con la risacca del mare, parte con la chitarra di George Benson ed è Nemure Nai, e poi ci sentiamo tra poco per i saluti. Parlavo di questo brano, la sua storia personale nella ricerca dell'editing originale tratto da un brano di Lonnie Smith con la collaborazione di George Benson. Il brano è It's Changed. Se parlavo con Alessandro Pedeveni, uno dei Jazzanova, questi new Jazzanova che ho costruito, mi permetto di dire, per quanto riguarda il mercoledì al Comini Express, dove siete tutte e tutti invitati, magari portando una vostra playlist rigorosamente in vinile. Una musica très sympathique, pas d'enflement de dragon, des petits pleins des petits ronds. Ah, e non finisce qui, anzi si continua al lavoro. Oggi alle ore 12 la conferenza stampa di presentazione Emilia Romagna Teatri 2024-2025, un palcoscenico importante che si aggiunge in queste anticipazioni di stagione, motivo di grande entusiasmo, sarà all'Arena del Sole e per l'inizio settimana con i magazine avremo spazio di approfondimento. Ed è il momento di augurarvi un buonissimo weekend, sia che state intraprendendo qualche gita o magari siete già in vacanza, oppure se restate in città sentite quante cose vi sono in un palcoscenico enorme che è la nostra città. Quindi con un caloroso abbraccio vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a colazione per lunedì, per dare il benvenuto anche al mese di luglio 2024. Sarà lunedì 1 luglio, ora però pensiamo al nostro imminente weekend. Con un buon ascolto vi lascio all'EDP Enciclopedico, Liberi Dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e dal vostro William Piana. Un caro saluto e un buon ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti, a lunedì e buon weekend. Depuis bientôt un mois et demi qu'elle s'est installée dans ma vie, il n'y a plus de place dans mes nuits pour le sommeil et pour l'ennui. Dans ses rêves elle murmure je t'aime, et elle ajoute mon bel Étienne. Je suis pas très beau, je m'appelle François. Ça fait trop drôle à chaque fois. Oui, mais le lendemain, je n'ose lui parler de l'horrible chose. Elle m'embrasse si gentiment. J'ai l'impression d'être sa maman. Qu'elle me quitte ou qu'elle demeure.